Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I tre moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. Monsieur de Troisville, come si chiamava ancora la sua famiglia in Guascogna, o Monsieur de Tréville, come aveva finito per chiamarsi egli stesso a Parigi, aveva veramente incominciato come D'Artagnan, ossia senza il becco d'un quattrino, ma con quel patrimonio d'audacia, di ingegno e di intelletto per cui il più povero nobiluccio guascone, eredito dal padre in speranze, assai più di quello che erediti in concreto il più ricco gentiluomo del Périgord o del Berry. Era l'amico del re e, come si sa, onorava molto la memoria del padre, Enrico IV. Il padre di Monsieur de Tréville aveva servito questo sovrano con tanta fedeltà nelle guerre contro la Lega che, in mancanza di denaro contante, l'aveva autorizzato, dopo la resa di Parigi, a prendere come stemma un leone d'oro in campo rosso, col motto «Fidelis et fortis». Era molto per l'onore, ma pochino per l'agiatezza. Difatti, quando l'illustre compagno del grande Enrico morì, come unica eredità lasciò al suo signor figlio la spada e il motto. Grazie a quel duplice dono e al nome senza macchia che l'accompagnava, Monsieur de Tréville fu ammesso nella casa del giovane principe, dove prestò così buon servizio con la spada e fu tanto fedele al suo motto che Luigi XIII, una delle buone lame del regno, soleva dire che, se un suo amico avesse dovuto battersi, gli avrebbe consigliato di scegliersi come secondo lui innanzitutto, poi Tréville e forse Tréville anche prima di lui. E difatti Luigi XIII sentiva per Tréville un vero affetto, affetto regale, affetto egoista, è vero, ma era pur sempre un affetto. Perciò Luigi XIII fece di Tréville il capitano dei suoi moschettieri. Tréville si rendeva perfettamente conto della guerra di quel tempo, in cui, quando non si viveva a spese del nemico, si viveva a spese dei propri compatrioti. I suoi soldati formavano una legione d'indiavolati, disobbediente a chiunque altro fuorché a lui. Sciamannati, avvinazzati, malconci, i moschettieri del re, o meglio quelli di Monsieur de Tréville, si sparpagliavano nelle bettole, ai passeggi, nei pubblici divertimenti, urlando e arricciandosi i mustacchi, facendo tintinnare le sciabole, urtando con voluttà le guardie del cardinale quando vi si imbattevano, poi duellando in piena strada con mille motteggi, talvolta uccisi, ma in tal caso certi d'essere pianti e vendicati, spesso uccidendo, e sicuri allora di non marcire in carcere, perché Monsieur de Tréville era lì per liberarli. Pertanto Monsieur de Tréville era elogiato in ogni tono, incensato da tutte le parti da quegli uomini che l'adoravano, i quali tutti, pendagli da forca com'erano, tremavano davanti a lui come scolari davanti al maestro, obbedienti alla minima parola e pronti a farsi uccidere per lavare la più piccola rampogna. Questa potente leva Monsieur de Tréville aveva adoperata, prima per il re e per gli amici del re, poi per se stesso e per i suoi amici. Con un raro talento per l'intrigo che lo poneva alla stregua dei più abili intriganti, egli s'era mantenuto onesto. E nonostante le forti stoccate che sfibrano e le gravose esercitazioni che affaticano, era diventato uno dei donnaioli più galanti, uno dei damerini più raffinati, uno dei conversatori più brillanti in preziosità e concetti del suo tempo. Il capitano dei moschettieri era quindi ammirato, temuto e amato, il che costituisce l'apogeo delle umane fortune. il cortile del palazzo di Monsieur de Tréville, in rue du Vieux Colombier, rassomigliava a un accampamento, e questo fin dalle 6 del mattino d'estate e dalle 8 d'inverno. Da 50-60 moschettieri, che parevano darsi il cambio per apparire sempre in numero imponente, vi passeggiavano di continuo in assetto di guerra e pronti a tutto. Lungo uno di quegli scaloni, nella cui area oggi si costruirebbe un'intera casa, salivano e scendevano i parigini che correvano a sollecitare qualche favore, i gentiluomini di provincia ansiosi di essere arruolati e i lacchè gallonati dei più vari colori che venivano a portare a Monsieur de Tréville i messaggi dei padroni. Il giorno in cui si presentò a D'Artagnan, l'affollamento era imponente, soprattutto per un provinciale arrivato di fresco. Vero è che questo provinciale era guascone, e specialmente a quei tempi i compatrioti di D'Artagnan avevano la fama di non lasciarsi intimidire facilmente. Fu pertanto in mezzo a quella calca e a quella confusione che avanzò il nostro giovanotto con il cuore palpitante, aggiustandosi la lunga spada sulle gambe magre e tenendo una mano sul bordo del feltro con quel mezzo sorriso del provinciale in soggezione che vuol darsi un contegno. Non appena oltrepassato un gruppo, tirava un sospiro di sollievo, ma capiva che gli altri si voltavano a guardarlo e, per la prima volta in vita sua, D'Artagnan, che fino a quel giorno aveva avuto una discreta opinione di sé, si trovò ridicolo. Giunto alla scala, fu peggio ancora. Sui primi gradini, quattro moschettieri si divertivano al seguente esercizio, mentre altri 10 o 12 camerati aspettavano sul pianerottolo il turno per prendere parte al gioco. Uno di loro, fermo sul gradino superiore, stringendo la spada sguainata, impediva, o almeno tentava di impedire agli altri di salire. Gli altri 3 armeggiavano con lui con spade agilissime. Sulle prime, D'Artagnan scambiò quei ferri per fioretti da scherma, li credette senza punta, ma ben presto da alcune scalfitture vide che ogni arma, al contrario, era affilata e appuntita parecchio, e ogni scalfittura non solo gli spettatori, ma anche gli attori ridevano come matti. Sul pianerottolo nessuno si batteva, si raccontavano storie di donne e in anticamera storie di corte. Sul pianerottolo D'Artagnan arrossì, in anticamera rabbrividì. La sua fantasia sveglia e sbrigliata che in Guascogna lo rendeva pericoloso alle giovani cameriere e talvolta anche alle giovani padrone, non aveva mai sognato, neppure in quei momenti di frenesia, la metà di quelle meraviglie amorose. E il quarto di quelle prodezze galanti che i nomi più famosi e particolari meno velati mettevano in risalto. Ma se il suo amore per i buoni costumi rimase scosso sul pianerottolo, il suo rispetto per il cardinale rimase scandalizzato nell'anticamera. Là, con grande stupore, D'Artagnan sentiva criticare ad alta voce la politica che faceva tremare l'Europa e la vita privata del cardinale, causa di punizione per molti nobili e potenti signori che avevano tentato di vedere più a fondo. Quel grand'uomo, riverito da D'Artagnan padre, era oggetto di scherno dei moschettieri di Tréville, che ne deridevano le gambe sbilenche e la schiena arcuata. Taluni cantavano delle filastrocche sulla sua amante, Madame de Guillon, e su Madame de Combalet, sua nipote, mentre gli altri stringevano lega ai danni dei paggi e delle guardie del cardinale duca, tutte cose che a D'Artagnan sembravano mostruosità inaudite. D'Artagnan non osava abbandonarsi alla conversazione. Si limitava a spalancare gli occhi ascoltando con le orecchie tese, aguzzando avidamente i cinque sensi per non perdere nulla, e nonostante la fiducia nelle raccomandazioni paterne, si sentiva portato dai suoi gusti e trascinato dai suoi istinti a lodare piuttosto che a biasimare le cose inaudite che colà succedevano. Alquanto rimessosi dalla primitiva sorpresa, D'Artagnan ebbe dunque agio di esaminare un po' le fogge di vestire e le fisionomie. Al centro del gruppo più animato stava un moschettiere d'alta statura, dal viso altero, con un abito bizzarro che attirava l'attenzione generale. In quel momento non portava la casacca d'uniforme che d'altronde non era strettamente obbligatoria in quei tempi di pochissima libertà, ma di maggiore indipendenza, bensì un giustacuore turchino, un tantino sbiadito e liso, e su di esso una splendida tracolla a ricami dorati che brillava come le squame di cui si copre l'acqua in pieno sole. Quel moschettiere era appena smontato in quell'istante dal suo turno di guardia, si lagnava ad un raffreddore e tossiva di tanto in tanto con affettazione. Difatti aveva preso il mantello, come diceva a quelli che lo attorniavano, e mentre lasciava cadere le parole dall'alto, arricciandosi sdegnosamente i baffi, gli astanti ammiravano con entusiasmo la tracolla ricamata e D'Artagnan più d'ogni altro. «Cosa volete?» diceva il moschettiere. «È la moda. È una follia, lo so, ma è la moda. D'altronde bisogna pure adoperare per qualcosa il danaro della propria legittima». «Ah, Porthos!» esclamò uno dei presenti. «Non cercare di farci credere che questa tracolla è frutto della generosità paterna. Ti sarà stata regalata dalla dama velata con la quale ti ho incontrato domenica scorsa verso Port Saint-Honoré». «No, parola onorata di gentiluomo, l'ho comperata io stesso e con i miei quattrini», rispose quegli che era stato designato con il nome di Porthos. «Sì, come io ho comperato quella borsa con quello che la mia amante aveva messo nella vecchia», intervenne un altro moschettiere. «Davvero», disse Porthos, «e la prova è che l'ho pagata 12 pistole. «Vero, Aramis?» fece Porthos, rivolgendosi a un altro moschettiere. Costui formava un perfetto contrasto con colui che lo interrogava e che l'aveva indicato con il nome di Aramis. Era un giovanotto di appena 22-23 anni, dal viso ingenuo e dolce, dagli occhi neri e miti e dalle guance rose e vellutate come una pesca d'autunno. I baffi sottili gli disegnavano sul labbro superiore una linea assolutamente diritta. Di solito parlava poco e ad agio, salutava molto, rideva sommesso mostrando i denti che aveva belli e dei quali pareva prendersi la massima cura, come di tutto il resto della persona. Con un cenno affermativo del capo, rispose alla domanda dell'amico. Tale affermazione parve bloccare ogni dubbio sulla tracolla. Si continuò ad ammirarla, ma non se ne parlò più, e per uno di quei rapidi mutamenti del pensiero la conversazione improvvisamente passò a un altro argomento. «Che ne pensate di quelle che racconta lo scudiero di Chalet?» chiese un moschettiere senza interpellare nessuno direttamente, ma anzi rivolgendosi a tutti quanti. «Cosa racconta?» chiese Porthos con tono di sufficienza. «Racconta di aver incontrato a Bruxelles Rochefort, l'anima dannata del cardinale, travestito da cappuccino. Quel maledetto Rochefort, grazie al travestimento, aveva giocato a Monsieur de Legge, davvero sciocco qual è». «Davvero sciocco», disse Porthos. «Ma la cosa è sicura?» «Lo so da Aramis», rispose il moschettiere. quel Rochefort! Esclamò Porthos. Se io fossi lo scudiere del povero chalet, con me passerebbe un brutto momento. E voi? Voi passereste un brutto quarto d'ora col Duca Rosso, ribatté Aramis. Ah, il Duca Rosso, bravo, bravo, il Duca Rosso, rispose Porthos sbattendo le mani e assentendo col capo. Il Duca Rosso, ben trovata, diffonderò la battuta, mio caro, siatene certo. Ha spirito questo Aramis. Peccato, non abbiate potuto seguire la vostra vocazione, caro mio. Che delizioso abate sareste stato. Oh, non è che un rinvio momentaneo, rispose Aramis. Un giorno lo sarò. Non aspetta che una cosa per decidersi definitivamente per riprendere la tonaca che è appesa dietro la sua uniforme, intervenne un altro moschettiere. E cosa aspetta? Chiese un altro. Aspetta che la regina abbia dato un erede alla corona di Francia. Non scherziamo su queste cose, signori, disse Porthos. Grazie a Dio la regina è ancora in età di poterlo dare. Dicono che siede Buckingham sia in Francia, continuò Aramis con un sorriso canzonatorio che dava alla frase, in apparenza tanto innocua, un significato piuttosto scandaloso. Aramis, amico mio, per questa volta avete torto, interruppe Porthos, e la vostra mania di far dello spirito vi trascina sempre al di là dei limiti. Se Monsieur de Treville vi sentisse, sareste fresco a parlare così. Volete farmi la lezione, Porthos? Esclamò Aramis, e un lampo attraversò i suoi occhi miti. Mio caro, siate moschettiere o abate, l'uno o l'altro, ma non l'uno e l'altro, soggiunse Porthos. Ecco, Athos ve l'ha detto anche l'altro giorno. Voi mangiate a tutte le greppie. Ah, non è il caso di offendersi, vi prego, sarebbe inutile. Conoscete il patto che c'è fra voi, Athos e me. Andate in casa di Madame de Guillon e la corteggiate. Andate in casa di Madame de Boistracy, la cugina di Madame de Chevreuse, e dicono che siate molto addentro nelle buone grazie della dama. Dio mio, non confessateci la vostra felicità. Non vi chiediamo il vostro segreto, conosciamo la vostra discrezione. Ma giacché possedete questa virtù, diamine, adoperatela nei riguardi di Sua Maestà. Porthos, siete pretenzioso come Narciso. Vi avverto, rispose Aramis. Sapete che odio la morale tranne quando la fa Athos. Quanto a voi, caro mio, avete una tracolla troppo splendida per essere ferrato in materia. Aramis! Porthos! Ehi, signori, signori! Venne esclamato intorno a loro. Monsieur de Treville aspetta Monsieur d'Artagnan! Interruppe il servitore aprendo la porta del gabinetto. A quell'annunzio tutti tacquero, e nel silenzio generale il giovane guascone attraversò l'anticamera per un tratto della sua lunghezza ed entrò dal capitano dei moschettieri, rallegrandosi di tutto cuore di sfuggire così a proposito alla conclusione di quella bizzarra lite. Paolo Bonacelli ha letto I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il Terzo Anello, @rai.it